1 CQ10. Love has in store. We have all che roba è? Ciao Natalino. Ah, tu sei Carlo, no, Marco. Ah, è la tua la musica, è l'autoradio. Sì, Marco, scusa ma sono in macchina, avevo la radio alta. Louis Armstrong. Infatti, insomma, sembra qualcosa di familiare, ma non ricordavo cosa. Andando a lavoro? Esatto, bravo. Sono in corso Trinità, diciamo, al semaforo. Brucia l'apparato natalino che sicuramente è in ascolto. Natalino, sono vicino, poco fa ho visto la sua antenna. Sì, io. La giornata sembra già migliore, meno ventosa, anzi credo non ce ne sia proprio vento. Io non sono uscito perché c'è un po' di mal di gola, sono un po' preso, che strano. Ti volevo chiedere Carlo, la situazione vostra cantiere com'è? Tutto fermo ancora? Sì, purtroppo sì, tutto fermo. Praticamente settimana scorsa abbiamo fatto una riunione con l'amministratore e c'era un rappresentante della società Vitruvius, no, che è la ditta che ci sta facendo i lavori, grossa ditta a livello nazionale, ha le mani in pasta dappertutto, però si deve essere incasinata. E praticamente loro ci dicevano che sono bloccati perché le banche non gli danno più la cessione del credito e praticamente ci chiedevano una fideiussione, cioè un prestito garantito a nome del condominio con tanto di assicurazione, in maniera tale che loro così possano riprendere velocemente i lavori, però i condomini non ne vogliono sentire di questa fideiussione, sembra che gli levi il sangue e nonostante tutte le garanzie di questo mondo, però del resto ognuno si tutela come può e loro hanno detto che preferiscono aspettare quando la situazione si sbloccherà, ormai abbiamo aspettato tanto, di conseguenza aspetteremo, purtroppo io mi devo adeguare al volere della maggioranza, io ero aperto per la questione fideiussione che è un prestito a nome del condominio però con contestualmente un'assicurazione che garantisce quel prestito qualora la ditta dovesse fallire o essere insolvente, insomma, in tutti questi casi qua. E quindi siamo ancora bloccati. Adesso a breve faremo un'altra riunione, ci aggiornerà. Cappa, a me sempre dare i soldi, poi chissà se rientreranno mai, assicurazioni o no. È come giocare alla roulette russa. Qua lo stesso non si vede più nessuno da mesi. Ma anche a livello di condominio non si sa niente. Ho anche paura a chiamare l'impresa. Ho paura a chiamare, ci credi? Però mentre la tua era già un'impresa conosciuta, avviata, questa è nata nel 2022 dal nulla. Che ne so io se dal nulla è apparsa e nel nulla scompare. Per carità, guarda. Sarà già scomparsa, non ti preoccupare. Mi, l'uccello del malaugurio mi, fino a c'anno mi sta. Ciao Natali, in compagnia di Carlo che sta andando a Trabacco, vai Carlo. Ciao Natalino, sono passato vicino a casa tua prima, ti avevo messo Armstrong ma magari eri distratto e non l'hai sentito. No, non c'ero e quindi non potevo sentire né vedere. Volevo sapere un'informazione Carlo, il 29 è concerto. Che devi andare. Il 29 mia moglie parte alle 7, a che ora deve essere Alghero all'aeroporto? punto. Allora, se parte alle 7 sicuramente va o a Roma o a Milano, mi sa, Nathalie. Guarda, deve essere lì, per le 6 deve essere lì. Se ha fatto già la carta d'imbarco, ce l'ha già, c'ha solo bagaglio a mano, alle 6 esatte deve essere lì, perché a quell'ora c'è, diciamo, ancora poca fila. Poi si può accavallare con gli altri voli e se vai più tardi rischi anche di, insomma, di prenderlo col fiato sospeso. E infatti gliel'ho detto, un'ora prima devi essere lì. Ho capito, mi tocca alzarmi alle 5:30 a portarla. Sì, quando sei lì alle 6 va benissimo, capito. L'importante è avere già la carta d'imbarco, così vai direttamente ai controlli di sicurezza se hai solo il bagaglio a mano. Io purtroppo sabato non ci sono, se no ti avrei dato anche una mano io a parcheggiare, ti avrei dato la tessera per entrare, eccetera, e uscire. Comunque se parcheggi fuori a quell'ora lo trovi tranquillamente, anche sulla prima corsia lo trovi, o sulla provinciale, lì sulla strada già un buco lo trovi in macchina, Natali. A quell'ora la mattina qualche parcheggio libero c'è. Sì, ok, andrà bene Meda. No problem, Carlo. Adesso vedo alle 6 di essere lì. Tanto partiamo alle 5:30 da qua, là. Alle 6 sono lì. Sì, Natalia, a quell'ora parti alle 5:30, alle 6 meno 10 sei all'aeroporto. Io impiego 20 minuti camminando a 100, 110, non di più. Sì, ho capito. Anda bene Meda. Perché deve andare a Roma, deve andare a un matrimonio, capito? Cioè a Latina deve andare, però arriva lì a Roma e poi già vanno a pigliarli. Sì, sì, ho capito, è bella città Latina, ci sono stato, è una bella città, fanno una bella festa d'estate, si chiama la Torre di Santa Rosa, una specie di candeliere ma enorme, sai cosa vuol dire enorme? Grande quanto ti posso dire. Quanto 50 candelieri di Sassari messi insieme, tutto illuminato, e lo portano in processione nella via principale. E ho capito, io la devo solo portare, devo rimanere qua purtroppo e non ci posso andare, ma va lì perché sposano quei due medici che abitano di fronte a noi, capito? E la vogliono, l'hanno invitata e allora la sto facendo andare, là. Quello a cui hanno rubato la bici? Sì, sì, quello lì. Giorgio sposa lui e l'altra dottoressa è Cristina, si chiama la moglie. Benemera, benemera. Insomma, qua, vabbè, tornando al discorso di prima, boh. Tutto molto, come dico io, aleatorio. Queste ditte così, poi, Marco, non gli sono le banche che gli hanno tagliato le gambe a queste imprese. Se queste imprese hanno dato i soldi prima loro, chi glieli torna più i soldi a questi qui? E falliscono per quello, è un casotto. Però io non capisco, se tutto era già avviato, se tutto era già provato, eccetera, queste banche dall'oggi al domani praticamente bloccano retroattivamente cose già avviate, già per cui avevano già dato il benestare, cioè non è che ti svegli dall'oggi al domani, non è che, le banche lo fanno perché non hanno scrupoli, dall'oggi al domani si sveglia e dicono, oggi blocchiamo le, come si dice, cessione del credito, capito? Boh, vabbè. E tu pigliatela con quella bagassa della Melona. Ma poi la Meloni non è che comanda le banche. Poi queste cose che lì sta facendo o non facendo saranno per i prossimi lavori, per le prossime cose da provare. Non lo so, è tutto fatto all'italiana comunque, all'italiana proprio, a cacchio di cane. Carlo, riprendi. Sì, Marco, alcune imprese anche di fronte a casa mia hanno ripreso, stanno interviabilizzando il tempo, proseguendo col capotto termico, capito? Le aziende piccole hanno attualmente la hanno più fiducia alle banche, quindi qualche banca ha aperto la cessione del credito, mentre le grosse aziende, quelle che insomma avevano le mani in pasta dappertutto, sono quelle che rischiano di più, capito? Mentre prima sembravano quelle più solide e più avviate, più, con più cantieri aperti, sono quelle che rischiano di più, per cui le banche sono più diffidenti ad aprire alla cessione del credito, anche se la nota del governo dice che dovrebbero riprendere adesso le banche, infatti la PNL e anche la Banca Intesa pare che abbiano ripreso con la cessione del credito. Adesso vediamo piano piano se le altre si riallineano. A te Marco. Speriamo, perché qua non si può stare così, sì. Questo è stato precario, la roba non finita, il ponteggio che le fa numerosi parcheggi anche. Caro Marco, è un casino, è per colpa del governo che è successo questo patatrac, perché hanno fatto i conti soltanto per avere i soldi. Che è un cantiere, tutto il disordine, tutto sporco, pieno di materiali, e questi qua non si vedono. Per quello che le aziende hanno anticipato e si sono esposte, vedrai che casino che succede. Se la banca non gli dà i soldi, non possono lavorare qui. Questione. Sta parlando. Nathalie, aspetta che c'è Carlo che stava ancora parlando, tu non lo sentivi più probabilmente. Carlo, l'ultimo passaggio non è stato copiato, dai. Poi c'era qualcuno di forte che forse ha parlato assieme a Natalino, ho schiacciato. Chi vuole entrare avanti? No, non lo so, vabbè. E io c'avevo lo squelce alto, per quello non l'ho sentito a Carlo. Io, un attimino, ecco qua. Così Carlo sente quando stacco se arrivo basso. E dove sei arrivato, Carlo? Allora Marco, ti sento forte e chiaro, il passaggio prima ho sentito anche Natalino di nuovo. Sono praticamente a 500 metri dal rifornitore che c'è sulla 4 corsie, praticamente mi mancano ancora un paio di chilometri e poi giro verso Tutubella. Allora, per quanto può valere, questo smitter, non lo so, è strano, e non se ne salva uno di smitter, diciamo se indicativamente un 7 di segnale, e la radio è buona, diciamo non fortissima perché vabbè è un portatile, però buona. E oggi anche per la giornata, diciamo, e quindi questo anche... Lo copi? Basso, basso. C'ho l'antenna, quella... Segnale? S9, quella che usiamo solitamente, diciamo quella più lunga. 5. Eia, allora Natalino ha detto che ti copia 5, però un po' basso credo che sia, poco intelligibile la comunicazione. Ok, no, qua ancora va bene. Naturalmente tu sei, diciamo, coadiuvato, diciamo, Carlo? Sì, esatto, un 35-40 watt, non di più. Sì, allora credo che siamo nelle stesse condizioni, dai. Va bene. Natale, riprendi. Io purtroppo sono in basso, lo sai. È strano però, perché... No, strano non è. No, perché si diceva che Paoletto, nonostante fosse dalle parti basse di Sassari, è che lui era più libero, no? Molto più libero. Lo sentivano ovunque, anche andando un po' verso il sud della Sardegna, cioè lo sentivano parecchio, per parecchie decine di chilometri, capito? Probabilmente perché lui era più libero, capito? C'era quella scheda di casette, però tutto intorno poi non ha palazzi più alti, capito? E insomma imbatteva un bel. E lui sì, io sono circondato dai palazzi che sono più alti di me pure, figurati. Io sono in una situazione brutta qua, se ero via Pietro Mica allora sì che l'avrei sentito fino al Ghero, ho parlato da tutte le parti quando ero in via Pietro Mica. Qua è la mala sorte. E Alghero, mi ricordo una volta arrivava meglio Alghero, avevano stazioni migliori posizioni, l'antenna era nuova, la mia antenna era nuova, adesso Sì, sono passati quasi 9 anni, magari è degradata un po'. Ossido, quello che vuoi. E Alghero lo sento basso basso, ma non sento quasi più nessuno d'Alghero. Prima entrava Giuseppe, quello anziano, entrava, aspetta, come si chiama, che è diventato anche radiatore. Tex, non mi ricordo il nome proprio, vabbè. E li sentivo anche io, adesso non sento più nessuno. Lì vicino all'aeroporto lo sento a Carlo, forse in basso anche lui, mi è per quello che io da qua non lo sento, perché sono troppo chiuso io. Sì, naturalmente, vabbè. La rumorosità è sempre, oggi però c'è meno propagazione, Natale, mi sembra di sentire molta molta meno propagazione. E io ho anche QRM a livello che parlava Carlo, ma strano, non ne avevo mai così. E io, vediamo se dove è arrivato Carlo e se copia ancora entrambi. Ok, ehi, Natali, ti ascolta, ogni tanto un po' a tratti, no? Propagazione permettendo, ogni tanto la radio anche passa meglio, capito, rispetto al QRM. Vabbè, ma tu quanti fate stai usando? 2 o 4? Natali? Ah, sono con 2 ratti io, e la radio anche bassa, c'ho. Aspetta, come cacchio è? Mi... così è più alta la radio, a Vanguala, con 2 watt lo sentivo, adesso dovrebbe sentirmi meglio, però mica è brutto non sentirmi. Sì, ha detto aumenta, aumenta, 2 sono pochi, almeno 4, poi se sono 8 meglio, se sono 16 ancora meglio. E a manetta l'ho messo. Sì, va bene. Purtroppo io non mi sento neanche bene, altro che uscire, fare, per carità, guarda. E infatti, cosa vuoi che ti dica? Io dovevo andare al mare, stamattina non ci sono andato. Adesso non riuscivo a rintracciare a Franco per quella lavatrice. Adesso verrà domani sul tardi, quindi prima me ne scendo al mare e poi... quando viene, viene. No, ma oggi o domani devi andare al mare? Domani. Ormai oggi cosa? Domani mattina, se fa bel tempo, vado a pigliare appena appena di sole. Sì, a mostrare chiappe chiare, Natali. Davvero. Solo che se prendo sole divento un negro e mi prendono per qualche nigeriano poi qua. Natali, può darsi pure il colore della pelle, ma la fava rimane piccola. No, e quella è grande, è proprio, sembra quella di un nigeriano. Alla prova che la Silvia. Natali. Allora, quelle ucraine mi hanno confermato che arrivano il 29 sera. Quelle ucraine? Eh sì, tu mi avevi detto, guarda, il 29 va benissimo. Marco, confermi? Sì, sì, ucraine vanno bene, poi sono profughi, hanno bisogno di aiuti umanitari. Già gli do il ciupa ciupa io. Maestro, sono solo intanto a casa il 29, così mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, così che Marco, io non lo so. Mi ben me moglie mio, se si rubri a vero, a chi la Giulia minacciadami, attenzione che tu dormi hanno toccato l'architrave di Ayanna, mi. A chi la giudice una bagazza entra e la traisci. Non sapevo che la tua moglie l'ascolto, Natali. E poi me lo pigliare un ruccio di cobra a troncarmi in alto, è in cucina, ma gli intendi da anch'ibi. Ma te le immagini questo Luca, per la pace, Marcolino sarà caduto dalla sedia dalle risate. E mi sta mandando il messaggio che anche lui vuole sapere, vuole, capito, vuole venire lì. No, Marco, no. Ti vedi Natalino, boh, va dentro a tutti. Canta la di Gedi, la canzone. Pizzina. Ti abbassano due dei microfoni. No, Marcolino dovremmo venire da. Che lui è. Per Marcolino quello è altro, anche se non mi ha dato l'apparecchio. Non me l'ha voluto vendere, ma quello. A Marcolino glielo facciamo, almeno ci dà una mano, che noi siamo vecchietti, adesso sa che poi facciamo brutte figure. Ok, dai. Dovremmo fare un karaoke, Edo. Oh, sono entrato, avevo una visita. E Carlo, l'abbiamo perso? Dove è arrivato? È arrivato già? Vediamo un po'. Boh, io non sento. Luca, copi qualcosa tu? Boh, io ce l'ho scorso chiuso, devo immaginare, spero che lo apro, vediamo un po'. Provo a richiamare, attenzione Carlo, Carlo, se sei ancora in viaggio. Ma io ho aperto tutto qua e o è arrivato, presumo sia arrivato, dai, o non mi copia più. Sì, un macello è. Settore che transitavano nel tuolo. Oh, Marco. Io lo stesso non ho sentito nulla. E poi mi sono dovuto assentare mentre voi parlavate, dopo la battuta della favola ho dovuto staccare in fretta un attimino. E quindi non hai sentito delle ucraine? No, quello l'ho sentito, quello ti ho detto, hanno bisogno di aiuti umanitari e noi glieli diamo. E metti a disposizione il Chupa Chupa pure tu, che le facciamo cantare al karaoke. No, ok, Chupa Chupa, quella vogliono armi da portare a Zelensky. Armi, tu già puoi contribuire, io no. Cosa gli do? La mazza fionda gli do. Ehi, gli diamo la mazza fionda. Ah, ti chiamo così. Ehi, ma io ho sentito questo termine, ma credo sia antico, mazza fionda, credo che voglia dire tira l'assi come la fionda. Aspetta che c'è Carlo, l'ho sentito. Carlo, dove sei arrivato? Carlo, al limite della copiabilità, ho capito, 200 metri dalla rotonda. Forse sei arrivato in zona. Comunque dai, ritieniti salutato, perché adesso il segnale è veramente bassino. Luca, tu l'hai copiato? Sì. A Puglia. Carlo, ti sentiamo, a Puglia ti sentiamo. Avanti. Sta parlando? Adesso sei proprio al limite. Allora Carlo, dai, ci salutiamo, confermo, copio solo il bip. Praticamente è lo stesso segnale del QRM, che qua non è basso, dai, buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ciao, vai Luca. Ciao Carlo, avanti Natali. Ciao Carlo, se mi ascolti, magari sì, io è che non ti ascolto. Ritieniti salutato, buon lavoro. Sentivo che salutava, dai. Perché il QRM qua è 4 e lui era tipo 4 e mezzo, dai. E sentivo solo il bip. Credo di aver sentito un saluto ovunque, vabbè. Io poi sono aiutato, c'ho 50 watt. Vabbè, io l'ho rimesso a 2 watt. Era 2 watt quando stavo parlando io poco fa. E cerca di tenerlo a quello. Ma poi Natale, io il bip l'ho messo per far capire, siccome poi siamo bassi in uno rispetto all'altro, per far capire a Carlo quando staccavo la portante, capito? Infatti di lui quando è troppo basso copio solo il bip. Il bip passa al QRM. E quello si sa, anch'io l'ho messo il bip per sapere quando staccava. Lo ascoltavo basso io. Sì, io pure. Ecco qua, l'altro giorno Franco Binario diceva che quando aveva l'altra antenna, quella precedente, un po' lo sentiva un po' meglio, cioè lo sentiva fino proprio all'aeroporto, capito? E vabbè, non tutte, adesso non ho capito bene che antenna avesse prima, se era una... Non me lo ricordo, francamente, glielo chiediamo quando lo sentiremo. Che antenna va prima? Se era una... come si chiama? Una turbo oppure un'antenna diversa? Boh. Sì, non me lo ricordo neanche io, la verità. So che ha una di quelle canne da pesca. Ed è anche bassa. Però vedi, lui è più libero di me. Io ho i palazzi che sono più alti di me. No, ma tu stai dicendo da casa, no, da macchina, dicevo dalla macchina. E non mi ricordo nemmeno se è base magnetica, se è con la gronda, non mi ricordo, se è l'attacco, io avevo quell'attacco bello, l'avevo poi anche pulito, quello che fa, lo puoi mettere a portiera, a baule o a cofano, è molto versatile. E deve essere con un attacco del genere, ce l'ha attaccato, perché lui c'ha un fuoristrada. Lunedì 8 maggio. E vira da Ridum e Bari, dove c'è la ruota di scorta. Ah, un fuoristrada, lì è un po' penalizzata l'antenna, D'altronde nel fuoristrada, cioè già è alto, se li metti pure un'antenna sul tetto diventa altissimo. Vabbè, ho capito, dai. E sul tettuccio non c'è niente da fare. C'è una bis, avevo fatto una prova a San Francesco, la stessa antenna, base magnetica al centro tetto, o meglio al centro del veicolo, sul tettuccio, e poi la stessa antenna messa sull'attacco a quello che avevo io a portiera, no? Che però praticamente a filo di tettuccio. Beh, nonostante la massa effettiva dell'attacco a portiera, massa effettiva è, sulla base magnetica guadagnavo quasi 2 Santiaghi, prova fatta con Sandro di Porto Torres. Lo so. Infatti, va meglio sul tetto, ma certe fuoristrada non hanno il tetto di ferro, di metallo, quindi non la puoi mettere la base magnetica, tipo il camper, Ah vabbè, hai ragione Natalie, io dopo per scontato il tetto è metallo, però ormai magari non ne fanno più col tetto è metallo, una volta stiamo parlando di 40 anni fa, io sono rimasto qui fuori strada. La Watts, una volta c'era un rivenditore a Sassari che vendeva la Watts a Sassari, lo sai, bella però, cioè spartanissima, verde oliva e strumentazione tipo autocarro, però il bello era quello, sembrava una Jeep vera militare, non quelle fighette, quelle cose fighette di adesso con le interne in pelle. Il fuoristrada vuole selvaggio, no? In modo che tu entri con gli anfibi, sporchi terra e almeno non fai danno. Ma quelle che fanno adesso le fuoristrada sono macchine normali, si può dire. La vera Jeep deve andare a sbalzi, deve essere proprio spartana. Vabbè, quelle costruite adesso sono troppo civili, cioè tutto fighetto, interno in pelle, tutte finiture che si sciupano con uso gravoso, capito? Come certi SUV, macchinoni giganteschi per cosa? Per andare in città. Fuori strada non ce lo fai perché è troppo elegante, ti si rovina, in città è un tram praticamente. E infatti cosa cazzo di ne va? In abito, giacca, cravatta, cazzo, se ti permetti di entrare con gli anfibi la rovini. Cazzo. Io se voglio un fuoristrada devo poter entrare con gli anfibi tutto sporco di fango, cazzo. Quella deve essere la vera Jeep, non quelle macchine fighette che fanno adesso, che vengono male anche a guidarle, se non ci sei buono è un macello. Luca, riprendi? Luca, come siamo con questo carico ucraine? Si è sentato. Serve il tracciamento per sapere a che punto sono, quando ce le consegnano. È a spizzina. Io un po' di russo già me la cavo, quindi non c'è problema. Sì, se li parli russo guai. Non so se sia la stessa lingua, quello non ho mai indagato, sapere se l'ucraino è una lingua a sé oppure se parlano ugualmente russo, una variante, che ne so io. Russo è, cosa vuoi che sia? Se sono fratelli, si stanno ammazzando tra fratelli. Però questo Putin reclama territori che avevano tanti anni fa, allora noi ci ridate il Sacro Romano Impero, avevamo tutta Europa, mezza Europa, dai. E infatti quanto mi piacerebbe sottomettere i tedeschi. Mi stanno mandando la foto di una di una ucraina di quelle nata lì, te l'ho mandata. Karachov, spasiba. Karachov cos'era? Saluti per caso. Passiva vuol dire grazie. L'unica cosa che credo di sapere. Lasciami andare a vedere la situazione. Mi ha detto le altre mie compagne sono più belle. Addirittura gli ho detto, più belle così. Guardate la foto, Marco, te l'ho mandata anche a te così sai cosa ti aspetta nel caso di vuoi rinunciare. Non penso proprio. Minca mia Issa. Caspita, io non so nemmeno dove è il telefono, devo andare alla ricerca, un attimino. Meno anche chiudere in bagno dopo. No, se volete faccio la performance in diretta. Allora Marco, ha detto, e io sono la più brutta. E caspita, ha detto, vabbè, ci accontentiamo se sei la più brutta. C'è stata un'interferenza della 50 qua e non potevo riprendere. E qua... ma se questa è la più brutta, di lì portare anche la madre e la nonna anche. Addirittura! Tutto. E qua, bella biondazza. Mi ha detto sono un po' bassa. Sì, bassa, già si vede. Sì, bassa vita, io sono padre con Kitu. Quelle non sono gambe, sono trampoli, colonne. Mamma mia. Cioè, con quella sì che mi avrei fatto un bel giubileo. Ma una donna del genere esigente, mi non so se da solo uno ce la fa. No, io già si muovo con ghisa, sono contento, anche se la dottoressa mi ha detto di non fare sforzi, le gambe me le metto sulle spalle. Marco sta già ridendo sotto i baffi. Sotto i baffi e sopra la barba, che mi devo rifare, e sembro un naufrago. Se vedi a me quanto sono diventato bello, mi ho fatto questo pizzetto e guarda, sembro un intellettuale proprio psicologicamente. E lui ride, io non sto scherzando, oggi mando una fotografia, mi bello bello. Aspetta, mi sto mandando le foto delle sorelle. Cavolo, ma da quant'è che non lo leggevo? Ci sono 10.000 messaggi persi qua. Cavolo. Ecco qua, felice mercoledì. Sì, felicissimo, guarda. Ma qualcuno va a sonno. Mamma mia. E anche stanotte, ho saltato la notte stamattina, praticamente, cosa ho dormito? Niente, tra rumori, coso, niente. Ecco perché oggi sono in condizioni abbastanza pietose, più del solito, cioè. Ti conviene cercarti il lavoro come guardia giurata, se non dormi, almeno ci guadagni qualcosa. Poi vedrai già crulli quando torni dal servizio. È capace che è la volta che dormo in servizio, mi cacciano. Infatti quello è il rischio. Chissà se appieni il rumico. Perché lì passa il controllo, cavolo. Se ti trovano addormentato è l'unica cosa. Ti sbattono fuori immediatamente. E secondo chi trovi al controllo ti sveglia a calci nei fianchi, nei reni. e te ne vai, gurudi a fucigato. E allora? Allora Luca, queste ucraine qua. Sì, sono arrivate le foto. Mi ha detto 3 o 4. Detto fai 4, una di scorta per quando si stancano le altre. E poi gli mette in mano il coso, come si chiama? Il ventaglio, a farmi il vento, se no si possono surriscaldare i gioielli. Arrivia. Bisogna fare il preriscaldamento. Ti volevo chiedere, Natalì, poi sto leggendo per le slitte delle armi, tipo le, vabbè, attacco Weaver, attacco Picatinny, quello che è, però perché la chiamano Scina? Ti risulta questo termine, Scina? Pronunciato, scritto come si pronuncia, Scina, anziché slitta la chiamano Scina. L'hai mai sentito questo termine? No, magari in inglese, capito. È una dritta, praticamente, dove mettere gli accessori. No, ma è strano perché questo termine non lo conoscevo assolutamente e lo usano sia in zona di Milano, ho detto sarà un termine milanese, invece poi ho visto che lo usano anche un negozio che però è toscano, Scina, anziché slitta o come dire binario lo chiamano Scina. Vabbè, adesso ne suona di più, è scritto proprio in italiano, Scina, come se fosse Scina, non so cosa, da dove derivi proprio a me e non saprei a che chiedere. E manco io, non l'ho mai sentito veramente. E lei, questa donna che... Vabbè, e poi stavo leggendo di cose, di attacchi, ne hanno fatto uno nuovo che adesso non si capisce niente, tu sembra che sia uno o l'altro, poi non poche tolleranze anche di decimi di millimetro e non puoi montare l'ottica o sull'uno o sull'altro, un pasticcio è. Allora era meglio l'attacco a code di rondine, quello delle carabine, è presente, quello largo 11 mm. Se non è standard è un casino, gli devi comprare l'ottica dedicata, perché tutti mi aspettano tanto. E questo toroide doppio? Un filtro è per isolare la rete elettrica, entrambi. Ah, ecco perché c'è una spina femmina, c'è una presa femmina di dietro. Per filtrare? Questo che uso io è Marco, che ti ho detto l'altro giorno. Siccome ce l'avevo, l'avevo messo solo dentro la cosa e con lo isolante, poi dentro la zona termina stringente, non mi biasia, capito? Allora ce l'avevo questa scatolina di un vecchio rosmetro, la ce l'ho messo lì dentro. Sì, e poi fuori c'è l'uscita, no? Ah, aspetta, ti mando la foto dell'ingresso. Eia. Io ho provato, Natalì, per questo QRM a vedere se era roba di casa. Sai cosa ho fatto? Ho staccato il contatore direttamente e ho attaccato il baracchino alla batteria, questa batteria al piombo che c'ho, quelle delle allarmi, e non è da casa, è roba che arriva tramite antenna. E magari ci avrai vicino qualche ponte e farà questo gioco qua. Dove vi abbaiate? Questo non è un canale, è un canile. Picchialo con la pompa. Millino, si può fare questo filtro. Adesso vedo se ce l'ho uno di questi filtri qua. Niente, me lo faccio pure io. E Luca mi ha sentito della prova. Ho staccato il contatore e attaccato la batteria al baracchino, ma non è tramite rete elettrica, è disturbi che arrivano tramite antenna, questo QRM elettrico. E magari becca qualche interferenza di qualche ponte, cazzo, che manda spurie di questi ponti telefonici. Adesso col 5G dice che mandano un casino di QRM, quindi non era molto buono. Ti serve QRM Eliminator oppure il DCP, Marco? Sì, a quello che si mette all'antenna, a quello che si accorda, quello mi sembra migliore. Sì, attenuare il QRM è buono. E poi conta che Natalia, se fosse davvero così, io il ripetitore ce l'ho a 30, no, aspetta, li ho misurati anche. Li ho misurati col metro laser, 44 metri. Sì, c'è un ripetitore a 40, fai 45 metri, dai. Figurati. E magari qualcosina, tanti baracchini non sono professionali, sono dei piccoli cessi con le manopole, capito? Quindi roba ne entra. Poi vabbè, magari uno usa l'HF e gli entra lo stesso QRM, chi lo sa. Troppi switching, tutto switching, capito? Alimentatori di televisori, cellulari, tutto ormai c'è quella roba lì. Poi fatte tutte cinesate sono. Cazzo, mia moglie mi stava dicendo, sono entrato dentro casa di un avvocato, no? L'hanno infiato la faccia, poverino, come l'hanno fatto, oltre a averlo derubato. Oh, ma dove? Se in Nord Italia saranno sicuramente romeni. Ma chi lo sa. La vita economica è stata negata e lui li ha assassinati. Dici, a questo avvocato l'hanno fatto la faccia a campione del mondo. Gli hanno fatto, figurati. Poi questo terribile delitto, quindi questo ci vedo. Gli hanno legati e picchiati. Aspetta, sto guardando un video. Ma il tuo QRM è senza l'eliminatore di QRM? Non ho capito, Marco. Ho detto, questo è il tuo QRM senza l'eliminatore di QRM? Cioè quello naturale, antenna diretta? E allora, mica c'è QRM eliminatore attaccato. L'avevo comprato così, ero curioso, avevo visto qualche video. Senza niente. Se attivo il filtro, allora, se tu guardi anche l'attenuatore, come ben vedi è staccato, i filtri sono staccati, è normale. Se attivo i filtri proprio sparisce tutto. Cavolo, QRM 0,5, capito? Luca c'ha 0,5 di QRM di Santiago, capito? Sì, lo so. Perché? Sono andato anche a Natalino. Poi cosa ne so, anche per esempio il cavo del baracchino passa dove c'è la calata, no? dal terrazzo di su, no? Passa praticamente aderente ai cavi delle antenne TV, magari anche da lì arriva roba, che cavolo ne so io, boh. Ma hai visto che c'è anche di quello attaccato alla stessa antenna in alto? Non so se ti ho mandato la foto, il video, il dipolo HF. E il ripetitore, non l'hai visto, c'era a 50 metri, è nel campo sportivo. E boh, e magari il baracchino, anche perché ho notato che in macchina, tipo questo che sto usando adesso, no? Poi gli altri sono un po' simili. È rumoroso lo stesso, mi cioè, tu vai in macchina, anche la fermo 2-3 di QRM, almeno 3. Non va dal di sotto più di tanto, boh, vabbè. E vabbè, quello era parecchio anche professionale, però non è un cacchio di baracchino, No, ma anche qui la THF io, anzi, c'avevo il 140, era più, mi saliva 1,5, perché ma il 140 è più rumoroso, capito? Quello sì. Però mi ricordo che, per esempio, col 140, quando l'antenna era nuova, cioè quando avevo il 140 avevo l'antenna nuova, e non più di tre, ma tre di giorno, di notte scendeva pure. E adesso è così gli altri baracchini, adesso sembra tutto incrementato, poi col ponteggio Toretto sembra che faccia da botte. Se ti attira la robaccia, cosa ne so io? L'elemento passivo di robaccia, me la tira dentro me. Caspita, chissà quando ve lo tolgo, adesso con questo casino che stanno facendo del 110, Iuia. C'è qui il mio vicino di casa che già 2-3 settimane fermo, poi lo riprendono un'altra settimana, poi lo tengono di nuovo fermo, sta lavorando lì dove attaccarlo. Un casotto con questo robot. Sì, 3 settimane, da noi da Natale che non ci vede nessuno, dalle ferie di Natale, a parte, vabbè, hanno fatto una intonacatura della interna del terrazzino, dalla parte del parapetto, no? Però ho tolto quel giorno, singolo, latitanti. Bella scusate il terreno, no, non lo dico, è bella fregatura questo, poi ci sono un sacco di cose, basta una virgola fuori posto, praticamente hai ipotecato la casa, altro che tutto gratis. Break. Avanti Gianni. Hey, buonasera a tutti, dai, doppio room. Questa modulazione pimpante, quali hai? Quello buono? Quello magnum? Aspetta che è troppo sta innescando, non capisco perché. Barra mobile, sì, la radio è buona, a parte l'innesco, dai. Cava. Dai, riprendi un attimino che devo controllare il parlascolo. Eia. A me innescavano invece in macchina 2, se non 3 radio, che peraltro sono simili, e non c'era verso. Ho provato massa effettiva, non massa effettiva, ho provato l'attacco CNC, l'attacco diretto dalla batteria, secondo me sono lunghi i cavi, non sono riuscito a venire a capo, ho ridotto i watt, niente, non c'è niente, anche con un watt innesca. E mi sono reso, pazienza. No, il mio è il parascolta, capito? Se non l'abbasso ti innesca. Cava. Ma in macchina non fa già, perché è troppo chiusa la macchina, rientra subito e innesca, capito? C'è Luca e Natalino. Natali, vai. Ciao Gianni. Ciao Natali. No, perché l'ho sempre usato col parlascolta in macchina, non mi ha mai innescato, capito? Stavo innescando perché ero troppo vicino col microfono, adesso mi sono reso conto. Per esempio, se lo lasci sulle gambe, all'altezza delle gambe è troppo vicino all'apparato, se lo porti alla bocca è un altro conto, dai. E infatti, ce l'avevo sulle gambe, dai. Sì, Luca, riprendi. Riprendete voi, ciao. Ah, sta seguendo la tracciatura dell'Ucraina, bene. Faccia per il trekking anche a noi. Come ce le consegnano col pacco, tipo Bartolini. E poi grande ad essere il pacco mio, Natalia, te l'abbia giù. Bella bambola, Ma quelle sono donne, mamma mia, che ti me ne immagino già, prima siamo tutte dolci, poi se uno per poco le sposa ti mettono a correre, ti comandano una bacchetta. Quelle, figurati, sono abituate a vivere in mezzo alla guerra, figurati cosa ne può uscire. Era migliorona io. Nonno con nonna era così, È proprio una terza guerra mondiale è stata quel matrimonio. Dimmi tu. Sì, purtroppo all'epoca, sai, quelle erano donne del sud, le famiglie numerose, non so quanti figli erano, non vedevano l'ora di sistemare le famiglie, quella era marinaio. Sai, cose fatte troppo in fretta. Peggio Baeddu. Manca la fede, ci conferma Donato il figlio. Però quelle russe, quelle ucraine, quelle lì sono abituate a comandare, mi capito? Il marito lo comanda una bacchetta. Lo comanda. Dipende, ma speriamo non siano come quelle tipo svedesi, che da giovani sono belle, poi da anziane diventano delle megere, ne scende tutto, proprio c'è un disfacimento totale. Ci vuole un buon corredo genetico lì, dai. Infatti da giovani sono belle, ma quando diventano più grandi è l'osso, sono brutte, pucci. Quelle che sono tanto belle da giovani poi fanno schifo da vecchi. Sì, come certe attrici. Certe attrici magari belle da giovani, però anche da anziane, hanno mantenuto comunque una certa bellezza, come poteva essere Virna Lisi, nonostante fosse grande era sempre una bella donna, certo proporzionata all'età. Invece c'è quell'altra attrice che mamma nominava, che è proprio diventata una megera rispetto a quando era giovane. Sì, infatti sono disfatte completamente. Gianni, cosa ne pensi tu? E come state dicendo, dai, però devo regolare l'apparenza perché mi sta fischiando. Ehi, un pochino lo fa. E mi devo fermare, sto camminando, capito? Ehi, fai, dai, concentrati sulla guida. E se no tocco magari quello che non devo toccare, capito? Mi devo fermare e controllare, non me lo ricordo più qual è la manopola. Ma qui il parlascolta ce l'abbiamo, Marcolì. Dove lavora come... Noi, allora, tu sì, attivabile da menu, la voce è NOG, la voce è numero 2 mi pare, NOG, N-O-G, una cosa del genere, e qua c'è una levetta, per esempio adesso c'è, guarda, e poi lo posso escludere con la levetta però. E io lo devo attivare solo da menu. Sì, da menu, solo da menu lo puoi attivare. Però è regolabile, mentre qua, no, sarebbe regolabile anche qua, ma allora per regolarlo devo andare sul menu anch'io. Io ho capito, meglio non punirmi. No, anche perché parlando io sento questa risonanza mia, a certe volte scorciami. Cioè, mi sento un po' nella cassa, non chiaro, no, sento questo balbettio, certe volte mi burio, ecco, e lo levo. E lo leggo, adesso è tolto. E infatti, Genova, no. Non mi piace a me. Ma te l'immagini questo QRM che c'è oggi? Mai avuto così alto. Anzi, ti dirò che oggi da me è più basso, è tipo 4,5, aspetta che controllo. Quant'è da te? 5 ce l'ho. Ah no, al contrario, allora qua è 4. Al momento è 4. E, stranamente, guarda, ci sono certi giorni che arriva a 6, però quello vedi non è QRM, quello è QRM misto a propagazione, che senti tutta una cozzaglia di segnali, gente FM, gente AM, e si mischiano a tutta quella bugia. Marco, si sente? Sono venendo a prenderti, vendicare la pelle, aspetta che squilla il telefono. Io qua qui vicino devono essere. Cavolo, deve essere successa qualche cosa. Quindi? Attenzione, canale 10, cambio. Avanti, avanti. Ti faccio vedere. Aspetta che lo sto regolando. Prova così. Hola. Hola. Attenzione, canale 10. Adesso mi ascolti bene. Bene, bene. Marco, là, come sta arrivando con questo antennino qua? Allora, la modulazione è bella limpida, quel tipo di modulazione che piacciono a me. Il segnale 9 modulato a 9 più 10. Gaba gaba, attenta Talino. È uguale, 9. Media va bene, sono nascosto sotto gli alberi adesso. Ecco, appagato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dove sei? A quadrato. A cappa. Stavo andando a fare una commissione, là. Anda bene, Meda. Mi dovevo fermare qua, ma c'è roba sportiva, è tutto chiuso, il quadrato non si può entrare. Sta salendo il segnale 9.15 e con fino a 9.20. Cosa ci sono per caso? Pattinatori o biciclette? Hanno messo i coni? Sono chiuso tutto, stanno piazzando qualche cosa, boh, non lo so, teloni in terra, non si capisce che cosa ci sia, ci sono sedie, qualche cosa di grosso c'è. Ah, ho capito, no, perché certi giorni fanno andare, mettono i coni tutto intorno, almeno metà piazzale segni, ci sono i bambini tipo con le pattini, biciclette e altre amenità del genere. Infatti è così, Marco, però adesso stanno praticamente piazzando anche altra roba, cioè da una parte ci sono questi ragazzini che stanno facendo sport, adesso non so cosa sia, se è pattinaggio, cosa sia. E poi dall'altra invece ci sono praticamente, c'è altra roba, c'è roba di complesso, qualche cosa del genere dovrebbe essere. Qualche concertino dovranno fare. Va bene. Nataloide. Aspetta che mi è arrivato il messaggio da quell'Ucraina, bionda. E cosa ti ha detto? Ha detto Tovarish, Massima, come vengo a Sassari, ti faccio nuovo. Non è che poi scopri che sotto c'è il calamandro, no? No, troppo bella Isa. È così bella che mi accontenterei anche del calamandro. No, ma quella, scherzi, così in Germania quando trovi quella bella è una bambola brutta, una bambola, ma ci sono certe brutte che sono brutte veramente. Poi noi a quelle tedesche le attiriamo, perché i maschi tedeschi sono freddi, capito? Invece le donne sono calde, e quando vedono un italiano se lo stupassano bene bene, subito, senza stare lì a tirarla alla lunga. Sì, magari quello 40 anni fa, non so, come ai tempi di Verdone, quegli anni là, però adesso c'era, lo straniero era più esotico, adesso con le frontiere, qui è troppo facile, troppo. Abbiamo parlato in due. Ho sentito un bip. Gianni, ripeti. No, non stavo parlando, stavo entrando da un altro canale che stavo facendo le prove, adesso l'ho regolato al 100. pagava. Un attimino che scendo, faccio una commissione e poi rientro, dai. E poi mi fermo là al quadrato. 5 minuti, vado alla massa e torno. Faccia pure. Cos'è, Marco? No, stavo guardando YouTube. È che non capisco. In certi cosi non ci sono i sottotitoli e non fanno le scenette, non capisci tutto. Si è parlato anzi ben poco. Certo. Cioè, mi sta venendo l'abbiocco. Sì, guarda, io sono tentato di farmi un caffè caffeinato, però, perché quando mi sento così di solito che devo uscire prendo lo Red Bull. Certo, non fa bene al cuore, però almeno ti dà una botta, mi. È come prendere un po' di bamba. E io qui scendo, mi qui giù, scendo dal portone, c'è il negro lì, che mi si avvicina. Mariano gli ha fatto veramente, mi. Era vicino al tabacchino venendo verso casa, si è avvicinato questo, ha detto se voleva la bamba. Boh. Guarda che negli anni 80 in piazza, quando eravamo giovincelli, venivi avvicinato da un illustre sconosciuto e qui mi ha detto siccome che vendono pure, fumano voi, fumano anche altra roba, e noi naturalmente stavamo sempre forfè, che non abbiamo trattato di quella roba. Però una volta mi ricordo che c'era un amico, no? Si avvicina a questo barbuto, fumo ne avete? E noi no. E ne volete allora fumo? E parte da sotto il giubbotto il suono di una selettiva, no? Capisci a me? E questo diventa bianco, retrocede, e mentre se ne andava sento che diceva cazzo, bianco diventato, cioè senza niente è tornato indietro un po' con la testa bassa, ha detto cazzo, accelera del passo, mi magari credeva che eravate sbirri. Bei tempi, in piazza Italia, mi zona provincia, lato provincia, no, è proprio in faccia proprio alle istituzioni, e non so se tuttora sia così, boh. Sono arrivati e quando sono arrivati non le frequento di quei posti io. Però una volta, guarda, la piazza Italia era incredibile, primi anni 80 fino alla fine anni 80, poi ha cambiato, c'è stata questa, ci andavi in piazza, la piazza piena, piena di gente che passeggiava, non al bar a bere, al bar, come la canzone di Giuseppe Anzia, in piazza per chiacchierare, non incollati a questi cacchi di smartphone. Un saccaccio di, poi c'è stata, non so perché, fine anni 80, inizio 90, ha cominciato a svuotarsi di brutto, e sono cambiati proprio i tempi. Peccato però. Era più bello prima. Andava a nutrirsi. Uno, due salite e discese mi ha fatto lì. La dolcezza, la preoccupazione. Si sente? Sì, sì. Perché abbiamo intenderlo. Ed è curato tutto. Cioè si sente col microfono normale? Sì, sì, si sente, col microfono amplificato era terribile. Infatti certe volte di notte se sono sveglio, tipo a mezzanotte, intanto il baracchino lo lascio acceso fino a tardi, certe volte premo la portante, blocco la portante e faccio sentire lo scocco della mezzanotte. No. E cosa stavo dicendo prima? Un attimo fa, cosa stavo dicendo? Ma oi, la testa. Si sentiva anche col microfono normale. Ma qui al corso deve essere successo qualche cosa. Dice che un furgone grande era della polizia, sicuramente gli amici di Cudiani a Manganello. Magari è successo qualche casino in Chili, con i nidi. Ma non è che stanno arrivando tifosi col treno o con pullman alla stazione, no? È una volta era successo casino, mi pare 2 anni fa, ti ricordi? Eia, dice che erano col furgone e poi si sentiva la sirena, si sentiva, ce n'era una a fischio e una la loro proprio, la bitonale, ed era un furgone grande, dice, evidentemente era quello per trasportare le truppe, quelle che picchiano. Eia, stavo guardando la notizia, ma non dice niente, vabbè, la nuova non è così immediata. Qui stavo leggendo, a Porto Torres, 2 pitbull scatenano il terrore, pensionata ferita. Mamma mia, sono degli scellerati i padroni di quei cani. Poi bisogna vedere com'è andata.